e grande adesione di pesce curioso, codora di gente e l'envidia di pelle, di palla, di pollo, venduti all'asta, attaccati al corpo, ridotta la ressa. Non resta che questa versione a sentire di pelle, di pollo. Superficiale.